Eccoci, eccoci, Bricco Baldo e Denever. Buonasera, buonasera a tutti, siamo in diretta e ragazzi, siamo in anticipo. Siamo in anticipo, notizia incredibile. Domani veramente piove. Domani potrebbe piovere, se non nevicare. Nevica, perché nevica, sì, nevica, poter ripetere in anticipo non si è mai due visto. Minuti d'anticipo, ragazzi, vogliamo i complimenti, inondate la casella di posta. Giusto, postawombat@insiberia.net. Allora, Denever. A me le scimmie artiche mi garbo. Oh, ma l'altra volta mi hai lasciato da solo, brutta merda, Sì, ho mollato sola. Sì. No. Sono noto per mollare sola. Vabbè, ma guarda, ti dico la verità, non mi è dispiaciuto tantissimo, Perché eri in buona compagnia, Sì, ero in buona compagnia, no, stavo bene, ma poi... Bionda. Sì, no, no. Moretta. Due mori. Due mori? Vabbè, so gusti. Due mori, oh, raga. So gusti. Sì, certo. Che problema c'è? Ecco. Bene, comunque buonasera a tutti e tutte. Buonasera a tutti e tutte. Dai, abbiamo appena passato tutte e tutti. Tutte così prima abbiamo passato ora l'8 marzo. Esatto. E l'8 marzo è sempre per noi, quindi ogni giorno. Il corpo è mio. Non di quel porco, di un dio. Oh. E questa è una citazione, poi non venite a accusarci di blasfemia, perché stiamo citando un famosissimo post, direi, a questo punto, un cartello del, fisico, del, fisico, reale, vero? Niente più post da leoni di tastiera. Esatto, che ha colpito nel segno, ha spopolato, poi naturalmente era al corteo di Roma, dove tu eri, fra l'altro. No, non è vero. Non è vero? Non c'eri? Sì, sì, c'ero, bel corteo. Tanto partecipato, ma tanto cordone di polizia da far paura. Sì, mi ha sorpreso questa cosa parecchio. No. Sembrava si aspettassero chissà che. Ci dobbiamo abituare a ste cose, non solo. Cioè, era fatto comunque per far paura. Comunque, il corpo è mio, non è il porco di un dio. Questo è il concetto fondamentale che vogliamo far passare. Esatto. Poi leggeremo anche un post più tardi, perché la cosa ha suscitato una quantità di commenti e di polemica, veramente. Sì, ora sembra tutti, vai, integralisti cattolici, teniamo così tanto a questo... Comunque, il reato di blasfemia esiste ancora. Lo sanno bene i pastafariani, che portano avanti una campagna, direi, da oramai più quasi un decennio. Nobile campagna, direi. È come? Una nobile campagna, sì, che si chiama Dio Scotto, è intitolata così, e magari cercheremo anche di averli con noi un giorno. Perché è interessante questa battaglia contro il reato di blasfemia, che nonostante siamo nel 2019 esiste ancora. Senti, che noi pedalatori, capisci? ci caschiamo parecchio nel reato di blasfemia. Sì. Vuoi il momento di fatica nel... Vuoi batti una romba in terra a un certo punto. Ma secondo me il nostro ospite forse è ancora di più, visto che sì, forse di rombe ne ha battute ben più di noi. Sì, c'ha la faccia un po' ammazzata. Come va con gli spiriti, con la spiritualità, caro? Nel BMX come funziona? Diciamo che argomento. Quando cadi, quando ti becchi un pedale sullo stinco, ti connetti verso l'alto. Pensi allo stinco di Miami, pensi all'alto e li tiri tutti giù. Esatto. Sì, oggi l'argomento, l'ospite principale è il nostro BMXaro. BMXaro, si dice BMXaro? No. Sarebbe Rider. Rider, pure qua i Rider, che palle. Sempre Rider. Rider, rider. Bene, perché allora, sì, siete un po' un rider. Gruppetto di riders a questo punto, che a Firenze scorrazzano e saltano, direi. Li potete vedere ad aprire la Critical Mass. È vero, sempre aprire la Critical Mass. Fanno un sacco di trick in apertura alla Critical Mass, molto divertente. Sì. Ho visto Transen saltate come se burda. Sì. Vabbè, però in città è divertente questa cosa. Sì, però ora ne chiacchieriamo un po', non solo in città. Ora scopriamo un po' di cose. Dai. Vogliamo mandare un pezzaccio? Sì, mandiamolo un pezzaccio. Il nostro rider. Sì, mandiamolo un pezzaccio. Direi proprio che ci vuole. Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro? Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina? Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo? Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose. Nella disperazione però puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie. Eccoli! Mamma come siamo cari stasera. Mamma proprio. Anzi no, mamma. Oh my gosh. E insomma, caro Denver, sballonzando dove andiamo? Andiamo agli sballonzonatori per urbani. Urbani. Dai, i BMX. Presentacelo. Ragazzi, a me BMX. Abbiamo qui con noi Rich, il rider. Uno dei ragazzi delle BMX. Esatto, non si chiamano BMX Ari, bensì Riders. Riders al plurale. E perché poi ci sono i Riders della logistica. I Riders. Un po' inflazionato questo nome. Eh sì, cambiare nome no. Corrono, no. Dai. Vabbè. Dai, ce ne inventeremo uno. Ecco. Senti, se è nominato la BMX, che cos'è la BMX? Spiegacela. Che cos'è la BMX? Allora, BMX come parola per definizione vuol dire Bicycle Motocross. Infatti la BMX come bicicletta nasce per come evoluzione della motocross però fatta su bici. Quindi tracciati di terra fatti con queste bici fatte apposta. E da lì poi è nato il freestyle. Si sono accorti che con quelle si poteva saltare, con quel tipo di bici si poteva saltare bene. Era agile e facile da tirare su, e da lì poi è nato il freestyle. Ma di che anni si parla? Si parla degli anni 70, più o meno le prime. Più o meno contemporanea alla mountain bike. Sì. Ma in America? Mi sa. Sì, sì, sì. Le prime BMX sono americane. E tu come hai iniziato? Questa è la curiosità principale. Allora, io ho iniziato grazie a un mio caro amico d'infanzia con cui ho fatto l'elementare insieme, che era originario della Romania. E lì in Romania la BMX è uno sport che va molto, soprattutto anche nella parte dell'est Europa va tanto come sport. E lui passava sempre l'estate lì in Romania. Passando l'estate lì in Romania ha portato questa cosa con sé anche qua a Firenze e mi ha incuriosito. Si è preso bene, diciamo. Sì, mi ha preso bene, poi ho conosciuto la scena fiorentina di allora e mi hanno solo incoraggiato e mi ha presa sempre meglio. Ma quindi dove sono i paesi che tira di più? Quindi, l'est Europa, io mi immagino questi posti dell'est Europa, grandi zone urbane, diciamo, no? Sì, cioè... Dei posti perfetti per fare... Sì, non solo... Cioè, scenari urbani perfetti, ma anche skatepark, perché ci sono città sconosciute che hanno anche 4-5 skatepark all'interno, mentre qua a Firenze ce ne abbiamo a malapena uno. Ecco, e non va neanche bene. Senti, non va bene per i BMX? Allora, se si parla di... Anzi, ne abbiamo due qua adesso, è vero. Cioè, quello dell'isolotto, che non è male, però... Non al coperto è... o no? All'aperto? No, all'aperto. Quello sono nuovo? All'aperto, sì. Quello dell'isolotto è stato inaugurato da pochissimo, se sì, non sbaglio. Sì, sì. Però diciamo che non è stata fatta una buona scelta delle geometrie e della logistica del posto. E risulta abbastanza piccolo e stretto. Però diciamo che è un grosso passo avanti rispetto a quello di Campo di Marte. Che quello non lo definirei neanche park. Ma sono ecco, cioè lo skate park va bene anche con la BMX oppure quello per la BMX con le biciclette ha delle peculiarità? Allora, diciamo che in uno scenario come quello di Firenze o comunque come quello italiano c'è un po' di differenza, perché magari quando fanno gli skate park li fanno per gli skater principianti, quindi strutture basse, linee tranquille, che con la BMX le puoi sfruttare, ma non è che ci evolvi più di tanto. Ok, Ma che differenza c'è fra una bici normale e una BMX? Cioè, la BMX come è fatta? Allora, principalmente le dimensioni. È una bici più piccola rispetto a quelle normali, appunto ha delle ruote da 20 con i copertoni grossi, ha una corona piccola da 25 denti davanti e una da 9 dietro nel rocchetto. Ed è fatta apposta, appunto, alle geometrie apposta per poterla alzare quando si fanno le evoluzioni e per poterla tirare su. Poi a volte su. Vedo che c'avete dei tubi attaccati ai mozzi delle ruote davanti e dietro. Sì, quelli servono per grindare. Grindare significa come quando nello skate scivolano sulle panchine o sui corrimano. Boia. Con la BMX lo fai con questi tubi. Ah, e tu scivoli sui corrimano con la BMX? Sui corrimano, cioè sui rail, sì. E se cadi lì la bestemmia... Sì, ci sta, sì. Ci sta. Vedi, Bricubato, che tutto si collega. Tutto si collega, Dio scotto. Sì, ma la bestemmia si collega a tutto, a prescindere. Tutto, esatto. Lo sai che c'è l'articolo che dimostra che bestemmiare aiuta la prestazione fisica in salita dei ciclisti. Davvero? Quindi quando... Ma è l'Ircio? Eh? No. È l'università del Chustrosht. Che l'ha dimostrato. Quindi, è doping, fondamentalmente. Eh sì, perché rilascia proprio. Tu bestemmi e rilasci. Non mi ricordo quale Bello. Ormone. E che... Ma è una pratica già diffusa questa qua oppure è da tempi antichi? Da tempi antichi, ok. L'uomo ha inventato Dio per poter bestemmiare. Io credo questo. E... No, se... Tanti dicono il contrario. Quindi... Che Dio ha inventato l'uomo. Comunque. Invece no, no. Quindi quando ti trovi a salire, condivido più la tua di tesi. Che so, la rampa dell'Africa, il viadotto dell'Africa. Lì ti torna utile. Proprio. Ma tornando appunto a Firenze, no? La scena fiorentina com'è? Allora, qui a Firenze a girare in BMX siamo 6. Ci sono state persone che hanno girato in passato che ora purtroppo non girano più per lavoro, insomma, perché appunto impegni della vita. Attualmente siamo 6, purtroppo non ci possiamo sempre riunire tutti insieme, capita raramente perché c'è chi ha scuola, c'è chi lavora. Però continuiamo a vederci. Ganzo. Ma ci avete rapporti con altri? Perché immagino lo skate park lo usino anche altre persone. Quindi ci avete rapporti, che so, con i ride, con i roller, con i ragazzi che vanno sui roller. Sì, siamo amici anche con gli skater che girano a Campo di Marte o con i bladers che girano al Next Emerson nello skate park. Ma fate, che so, si può fare per dirti... Dei trick assieme, no, non penso, quello è un po' difficile. No, vabbè, però cioè, se uno la pensa con fantasia può creare qualche combinazione, uno che si abbassa, l'altro lo salta, insomma, qualcosa si può fare. Invece ti volevo chiedere, tu guidi solo, vai solo con la BMX, non so, certe volte non ti viene da usare la mountain bike, no? Diciamo cioè, ormai... che qua in città a volte, soprattutto quando piove, se devo prendere la bici ho una bici da città. Perché con la BMX quando piove è un casino, non avendo parafanghi ti bagni tutto. Beh, scusa, ma è comoda la BMX per andare a giro normalmente? Allora, all'inizio hai diritto di non rispondere. Perché è una domanda che avrebbe dopo. No, perché è una domanda scomoda. Ah, ok. Cioè, dipende da come uno la vede la BMX, perché se te vuoi una BMX per andare a giro, allora di conseguenza pigli un modello più comodo, con un sellino più alto, per poterci andare normale. Però se la vedi per farci freestyle, ti sembra comoda anche la tua. Ok. Durante la Cemona si fece fino a Mondeggi in BMX. Ricordo. E lì, bestemmia. Ma poi non ci sono freni sulla BMX? Allora, la scelta dei freni dipende dai gusti. Diciamo che principalmente nello street si usa non metterli. Il freno viene usato soprattutto negli skatepark perché ci sono altezze più, cioè ci sono altezze diverse, velocità anche diverse, quindi aiuta magari più a controllarlo. Però quello sempre dipende dalla scelta singola della persona. Ma ad esempio, dai gusti. Quando fate girare velocemente lo sterzo mentre volate in aria, no? Sì. Se c'è il freno, come si fa? Non ci deve essere lì. Allora, ci sono due modi. Di solito si mette o un cavo lungo che ti permette di fare uno o due giri senza bloccarsi. Ah, ecco. O se no c'è un meccanismo apposta fatto da delle piastre che si mettono sotto all'attacco del manubrio, che ti permettono, cioè ti dividono il filo del freno in due parti. Si agganciano a queste piastre e queste piastre tirano il freno e ti permette di girare il manubrio a 360. Ganzo. Questo se sistema no, si chiama gyro. Ah, ok, ganzo. Ma prima parlavi di street, cosa intendevi? Cioè ci sono diverse discipline? Allora, di sì, le principali diciamo sono quattro. C'è lo street, il dirt, il park e il flat. Ora vi spiego un po'. Sì. Allora, lo street è appunto strada, è quello che si svolge in scenari urbani, su in posti che noi chiamiamo spot, dove ci sono panchine, scalinate, corrimano, dipende, quello che ganzo, si trova. Ganzo. Mentre poi c'è il park, che si svolge negli skate park, il dirt invece si svolge sulle rampe di terra, e il flat invece è tutta una disciplina diversa da queste altre, cioè proprio la più distaccata, che non si basa sul saltare con la bici, ma sul rimanere in equilibrio. Quindi è più quasi una danza con la bici. Ganzo. Ma se uno le vuole vedere queste cose su YouTube le trova? Sì, ci sono un sacco di video. Ci sono, anche se uno vuole imparare, ci sono un sacco di tutorial. Un sacco di, sì, di gente che ti spiega come iniziare. Ma senti, giusto per una domanda, il genere di musica che si associa in genere alla scena BMX? Ma principalmente l'hip hop, il rap, però diciamo che ci va bene anche il punk? Sì, anche il punk, il rock, il metal. Allora, Bricobaldo, un pezzaccio punk ce l'hai? Bricobaldo, non... Intanto mi riaccendo. Un pezzaccio punk. Un pezzaccio. Te lo posso trovare? Sì, così facciamo respirare il nostro ospite, perché l'ho interrogato. Ora devo spegnere la lampada da 300.000 watt con la quale... Ok. Io ve lo manderei. Manda. Sitting in the bathtub on the Avenue B, it never agree. Sally, all empires fall, even trends they fade away. Even complete strangers can lead you astray. But God damn it, this round is on me. Nobody learned no nothing from an old history. Whoa. Not you. Hey, hey, hey, hey, hey. Whoa, whoa, whoa. Hey, hey, hey, hey, hey. Not me, not you. Tall little Sally, my darling, your panic's so charming. Tall little Sally, my darling, oh, your panic's so charming. Your shopping tactics are amazing. Celebrity erudition disarming. Tall little Sally, my darling, your panic is so charming. Yeah, hey. We'll be right back. anche le foche bevono Radio Wombat. E se se la bevono le foche Radio Wombat, bevetevela pure voi, eh? Sì, figurati noi, fra l'altro. Noi ce la sciroppiamo. Noi ci beviamo le foche. Ci beviamo pure le foche. E siamo qui con il nostro rider di BMX. E si stava chiacchierando un po' di questa disciplina, di queste discipline legate alla BMX. E ti volevo fare una domanda, Rich. Quindi, praticamente la BMX per muoversi in urbano, per la mobilità urbana, me la immagino l'equivalente del parkour ma in bici, no? Cioè puoi saltare di tutto. Sì, esatto, cioè come il parkour, la BMX praticata in strada ti fa vedere proprio la strada in maniera diversa. Cioè noti rampe, noti panchine in maniera diversa. Vedi tutto come un ostacolo da... cioè ti spunti per fare un'acrobazia. No, sì. Fighissima questa cosa, in verità, perché tutte quelle che sono barriere architettoniche, esatto, per tante persone, per voi non sono altro che dei trampolini di lancio, uno spazio per evoluzione, per dare sfogo alla fantasia e alla... particolarissima questa cosa. Ma a proposito di mobilità, zitto. Ah, no, a proposito di mobilità, vai. A proposito di mobilità, avevi qualcosa da dire? Cioè tantissime cose. Mobilità, l'argomento mobilità. L'argomento mobilità, però, è un po' come sparare sulla Croce Rossa a Firenze, sì, perché è un disastro. Per l'immobilità. Disastro, è un'immobilità, sì, più che un'immobilità. Sì, comunque no, le ultimissime novità sono quelle che pubblicano La Nazione qualche giorno fa, si parla del 6 marzo con La Fazione. Articolo di Monica Piraccini che dice: Firenze, sondaggio sulla mobilità, mezzi pubblici troppo lenti e la bici non decolla. E questo è che ne sa lei delle BMX? Che ne sa lei delle BMX? Non lo so. Che decollano. Esatto, è vero. Diciamo, questo sondaggio si basa su questo articolo si basa su un sondaggio che è stato promosso dalla città metropolitana, che ha fatto un sondaggio online, si è chiuso giusto 4 giorni fa, era il 10, e che cosa ne è venuto fuori? Ve lo diciamo noi che cosa ne è venuto fuori. È venuto fuori fondamentalmente che 3 fiorentini su 5 sono soddisfatti del servizio di trasporto pubblico locale, utilizzano pochissimo il bike e il car sharing, abbandonerebbero più facilmente l'auto se la frequenza dei mezzi pubblici fosse maggiore e i tempi di percorrenza fossero più corti. Per andare nello specifico, il 76% dei cittadini usa i mezzi pubblici, solo però il 33 come unico sistema utilizzato per spostarsi, l'11 lo usa spesso, il 21 lo usa poco, il 37 raramente. Però tendenzialmente poi per gli spostamenti i fiorentini usano soprattutto gli autobus urbani, insomma, in modo sì, soprattutto i se bus. Se non ricordo male una statistica, Firenze è seconda soltanto a Genova per numero di motorini. Sì, vero. C'ha una sì, ora io Napoli, cioè, vorrei vedere Napoli, Napoli forse non sono fuori dalla classifica, ma che comunque fondamentalmente per i tragitti più lunghi non c'è autobus, tram o treno che regga, perché il 42% piglia la sua macchinina e va. Esatto. E affumica la conca fiorentina. Il car sharing e il bike sharing nei tragitti lunghi è utilizzato dall'1% rispettivamente, 1% car sharing e 1% anche il bike sharing. Non decolla, quindi è un po' bello. Cioè, sì, grazie al cazzo, dice. Senti, mai provato a fare qualche trick col bike sharing? Col bike sharing? Sì. Sì. Ah, come grazie. Vengono? Beh, allora, diciamo che sono come geometrie non sono troppo diverse dalla BMX. Comunque sono bici piccole. Quindi pesano 80 kg però. Pesano un po' di più, però le tiri su. Ovviamente non ci salti le cose, però qualche saltino ce lo fai. Rispetto, beh, massimo rispetto per il compare Ricci. Senti, comunque la vera notizia che La Nazione dà è questa. Bene, che l'11% dei cittadini considera prioritaria rendere il traffico delle auto più scorrevole. Il 10% invece ritiene che si debba progettare la mobilità tenendo conto della posizione delle aree residenziali e dei poli attrattori. C'è una percentuale che dice facciamo sparire le auto così si risolve no, il problema? No, stai scherzando? No. Cioè, tu forse non hai capito, cioè, ma a me viene il dubbio. Il traffico delle auto, come lo vogliono rendere più fluido? Spalmano la vasellina sugli sportelli? Boh, sì, forse sì, non cioè, lo so. Però è il grande tema Denver. Secondo me, a me stanno venendo un po' di dubbi, ma forse c'hanno ragione loro. Dici? Ma io guarda, io passo dalla parte di automobilisti alla fine. Ah, non è possibile che, cioè, ecco qua, vabbè, dopo Lindo Ferretti. Dai, dopo Lindo Ferretti, dai, potrò lindizzarmi anch'io un po'. No. No, perché, cioè, com'è possibile che tu, cioè, hai sentito Nardella cosa ha detto? Ha fatto un po' una battuta tipo Berlusconi quando disse di levare l'ICI. Ora, nel rush finale delle... Mi lasci senza parole. Sì. Non l'ho sentita. Cos'è? Dai, come no, sì, che l'hai sentita. Ha detto che tutti i parcheggi saranno gratuiti, i parcheggi con le strisce blu saranno gratuiti per tutti. Per tutti non l'ha detto, no? No, non l'ha detto, no. Forse l'ha detto, dai. Potrebbe averlo detto, effettivamente. Cioè, oddio, agli ossessionati del dell'auto, se dici il parcheggio gratuito, è equivalente. Certo, è equivalente a voto. Ti voto subito. Ti voto subito. Ti voto subito. Dove li metti sti parcheggi? Non si sa. Qualcuno giustamente ha anche obiettato. Medievale. Sì, ma Nardellino, ma te sei già sindaco, cioè non è che potresti già farla, non è che c'è bisogno di essere. Perché lui ha detto: se mi eleggete di nuovo, io prometto solo che vi farò. Solo se mi eleggete di nuovo, prometto che ora farò non questo. Lo no, ora col cazzo, scusa. No, stiamo alla frutta, stiamo proprio alla frutta. Ma Rich, ti volevo chiedere. Ma quanto ci si fa male a iniziare con la BMX? All'inizio, vabbè, all'inizio quando devi ancora prendere confidenza con la bici non è che ti fai male. Più che altro le prime volte che inizi a saltare buchi tanto le ruote, perché Cazzo. Prendi i bordi dei marciapiedi o prendi gli scalini e ti pinzano la camera d'aria e buchi. Ora assecondate la mia nerditudine. Perché fra l'altro avete le gomme sgonfie voi, vero? Ecco, esatto, stavo per chiedere questo. La mia nerditudine di ciclista, no? A quanto le gonfie le gomme? Sai, è la classica frase, certo. Fracile. A quanto allora, e qui si vede quanto uno ne sa di bici. Quella davanti la gonfio a 4 atmosfere e quella dietro a 4,5. Che faccio? Lascio? 4,5? No, dai, continua. Lascio, no, vabbè. Quindi a 4 e 4,5, segna, hai preso più. Sì, è tanto poco. È poco, secondo me. Sì, considera che tranquillo. Una macchina sta a 7. Sulle 2,5, no? 2,5? Sì. Burda. Una bici da corsa sta sui 7,5. Ah, ecco, vedi. Davvero? Sì. No, non lo sapevo sta cosa. Sì, anche 8. Dipende da quanto pesi. Pensa te. Denver ne sa uno più del diavolo. Esatto. Uno più ma del io diavolo. Sono del diavolo. Mi garberebbe essere il diavolo. Che sarebbe figo essere il diavolo. Sarebbe figo. Apparire, sì. Tipo con la certo. Con la cosa di zolfo, no? Puoi dire tutto e nessuno ti giudica male. No, anzi, mi hanno già giudicato male, quindi sarei a posto. Ma senti, ma come si segue la scena fiorentina BMX? Se qualcuno vuole più notizie, cioè avete una pagina Facebook, cioè avete una crew, cioè avete... Allora, se qualcuno vuole avvicinarsi al mondo della BMX, vuole scriverci, così abbiamo un gruppo su Facebook, cioè, che si chiama BMX Firenze. BMX Firenze, dai. Se lo cercate, chiedete, basta richiedere l'accesso e accettiamo tutti. Tutti. Chiunque sia interessato. No, i fasci no. No, quelli no. Ah, ecco, normale. Ma i fasci non piace la BMX. Non piace la BMX ai fasci? No, è troppo underground. No, sì. È che sono pieni di merda, quindi se saltano poi sbragano, capito? E quindi... Ma senti, ma un po' una cosa, ma chi va in BMX fa anche il pop? Dai, fatemi uno stereotipo, ti prego. In che senso fa anche? Nel senso, si veste molto largone, molto yeah. Ma, no, ognuno c'ha il suo stile. Ognuno c'ha il suo stile, certo. Dipende. Dipende però, anche, non so, dai gusti che uno ha. Se ti vesti largo, ti si impuntano i pantaloni. Sì, rimangono i pantaloni nel sellino. Nella bici, nel sellino, non lo so, boh. La vedo critica. No, mi era venuta in mente una cosa, ma vista la mia memoria... Senti, allora, quindi, nel freestyle, in strada, i posti più divertenti, dov'è che ti vai a fare i trick? A parte nei park, negli skate park. Qui a Firenze? Qui a Firenze, sì. Qui a Firenze c'è Piazza Alberti, che comunque ora è un po' devastata, perché è tutto rovinato, il pavimento. C'è a Novoli qualche panchina, qualche scalinata. Piazza Alberti dici lì vicino al... Cosa c'è? McDonald's? Burger King. Sì. Facciamo pubblicità così, gratis. Sì, esatto, è vero. Non credo che qualcuno che... Vabbè, voi andate dubito a farci, voi andate a farci BMX. Se, esatto. Cioè, evitate di... pisciare al Burger King. Esatto, andate a pisciare casomai davanti a Burger King. Se poi vi scappa qualcosa di più impegnativo... Andate dietro l'angolo, però sempre del Burger King. Sempre. Ma la mia domanda... era questa, ma le guardie vi inseguono? vi braccano, vi considerano oppure non vi vedono proprio? No, non ci. Non, di solito non ci considerano. Gli ho portato sfiga. Di solito. Ora gli ho portato sfiga e lo arresto. Però dipende dalle occasioni. Cioè, mi è capitato a volte, per esempio, in Santa Maria Novella che mi arrivassero i vigili in borghese a dirmi: te non puoi stare qui a fare. Sì. Sì. E perché non potresti stare lì a fare i trick? Perché. Vabbè, dicono che è pericoloso. Perché loro non sanno cos'è questo sport. Ansia. Non sanno che. Uno comunque appunto non sanno che è uno sport, pensano che sia questa persona lì a caso a fare il cretino con la bici. Se me pensano che ti fa le canne, è questa la verità. Ma lui non se le fa, non l'ho mai visto. No, no, ma è questo, no, io non lo metto in dubbio. Cioè... Vabbè, però sì, spesso è anche associata la cosa. Cioè, skate, sì, esatto. BMX spesso è associata. Vabbè, anche... Non stavo parlando delle canne nello specifico, però nel senso c'è uno stereotipo sì. Dietro alla, al, insomma, a chi fa BMX, a chi fa skate, a chi insomma. Questi sport più urban. Purtroppo viviamo in una società di persone che vedono stereotipi, diciamo. Viviamo negli stereotipi, sì. È vero. Vabbè. E nel pregiudizio. Però magari è umano, questa cosa è una cosa. Sì, bisogna fare uno steppino dell'evoluzione. Sì, no? Probabilmente lo steppino dell'evoluzione è accorgersi di avere gli stereotipi e quindi essere pronti a metterli in discussione, però. Beh, sì, sarebbe figo. Pregiudizio, sì. La stessa cosa. C'hai pregiudizi tu? No. Verso le altre biciclette? Verso le grazielle? No. No, le grazielle sono fatte. Okay. Guarda, appena detto grazielle gli si è illuminato l'occhio. Ma sì, perché poi le grazielle sono un po' delle BMX. No, sto dicendo una stronzata. La misura della ruota è la stessa, ecco, sono vedi, sempre 20 polli. Vedi? Secondo me le penne ce le fai benissimo con la graziella. Ci ho provato, dai. Una volta... mi sono ribaltato, vedi, subito perché... Però ti fai le scintille perché il portapacchi dietro struscia. Vero. E anche come nelle BMX si può portare una persona dietro. Voi lo portate sui coni, giusto? Quello dipende dal tipo di BMX che uno ha. Perché comunque quando si guarda la parte del freestyle, quindi si vede la BMX non per portare le persone ma per farci freestyle, ci sono alcuni telai che hanno il carro dietro corto, più corto del normale, e quindi non c'hai proprio lo spazio fisico per portare un'altra persona sopra. Mettimi la musichetta Super Quark. Non ce l'ho. Mi spiace. Che cos'è il carro dietro? Lo spieghiamo agli ascoltatori. Dai. Non allora, attenti di in punta di dai. Il carro dietro è la parte che va dalla corona a dove si attacca la ruota dietro al telaio. Perfetto, grande Rich. Perfetto, ottima spiegazione. Quindi la coda della bici può essere lunga o corta, quindi la distanza che poi alla fine la ruota ha dal centro della bici. Esatto, può essere diversa, no? Quindi se è più corta, qual è il vantaggio? La bici è più reattiva. È una questione di fisica poi alla fine questa. Sì. Sì. Di leve, di... Esatto, momenti, sì. Come sei saggio, Brick Ball. Sì. Sono vecchie rimanescenze della scuola per geometri. Ma infatti ogni angolazione dei pezzi è calcolata. Ganzo. Vabbè, certo. Comunque, certo. Dovremmo fare una puntata in punta di pedale, una puntata soporifera. Avvertiamo gli ascoltatori. Vai, su cosa dovresti fare? Sulla geometria della bici. Sulla geometria della bici. Sulle sì. Varie geometrie. Perché è un'arte, è qualcosa di. Sì, è vero. È un'alchimia. È un'alchimia, è una cosa è troppo vero. Figa. Assolutamente. Ci sono libri e libri. E continuano a studiarci su questa cosa. Poi nella mania di perfezionismo dell'era moderna, figurati che cosa non si inventano. Sì. Ma a proposito di modernità, caro Bricco Bando. Vuoi un pezzo, una canzone? Ma esatto. Dai, te lo mando. Ci allora. Stava bene. Era moderno ai tempi suoi questo. Allora è moderno anche oggi. You the cold maids say one prison calling Nancy Nine Tuzo. Alright! Maybe get the color boss dying. Brrr, chance of mine, we get a cold. Baby, sustain, yeah, Bill Joe. We don't stay in the shoes now, we'll hold Billy Sane in a whole rip. Maybe get the color boss dying. Baby, sustain, man, you're gonna call me Steen. You know, for trouble, never just a god, baby, sustain. not choose no pain for not so hope hope just getting lot of cover no time. Oh, but never sustain a lady's shoes ago, my man. You've a trust in the matter called your radio girls. Oh, Saturday. Perché mentre una nave battente bandiera olandese a fare il trasbordo di immigrati clandestini a casa mia, oppure l'Olanda mi dice che non riconosce la Sea-Watch, il che significa che la Sea-Watch è una nave pirata e quindi queste persone si fanno sbarcare, l'equipaggio si arresta e la nave si affonda. O l'Olanda sta avviando un atto ostile nei miei confronti. La nave si affonda. E la nave si non affonda. So se siamo stati abbastanza chiari. La nave si affonda. Si sta parlando della Sea-Watch. La nave olandese sarà piena di biciclette. Tra l'altro, potremmo considerarla un attacco diretto al mondo della bici, questo. Sì, perché? Con un salto un po' così. Perché ce l'ha con l'Olanda. Perché ce l'ha con l'Olanda. E che cazzo. Invece l'Olanda, lo sappiamo, è la patria delle biciclette. Comunque la Meloni, ma che cazzo, ma si arrabbia sempre la Meloni, ma chissà. Ma dai, lascia la gli fa bene, si arrabbia. Si arrabbia, ma tra cuore, l'altro. Cuore. Tra l'altro si arrabbia anche con noi. Sì. Secondo me. Eh sì. Non hai visto Meloni contro i centri sociali fiorentini? No, eh? Beh, te l'hai perso. Post su Twitter, e dove appunto attacca i centri sociali fiorentini, che postando la foto di uno striscione della Squirt, la Squirt a Firenze, perché un paio di settimane fa c'era Massimo Gandolfini a Firenze, per una delle sue scampagnate. E niente, la Squirt ha pensato bene di presidiare il posto e se l'è presa particolarmente perché c'era scritto Gandolfini appeso su questo post, su questo striscione, quindi l'ha colpita in particolar modo, tanto da tornare di nuovo a Firenze questo sabato, cioè fra due giorni. Eh sì, perché tornerà anche con Massimo Gandolfini, ma non solo, con Federica Picchi e con tutta un'altra serie di onorevoli e bla bla bla e così. Perché? Che cosa c'è? C'è più famiglia. È il tema che sabato 16 marzo, in attesa del Congresso Mondiale delle Famiglie, è in programma a Verona dal 29 al 31 marzo. Quindi, per avvicinarsi a questo, appunto, per avvicinarsi al 29 e 31 marzo, il 16 saranno a Firenze nella nuova tappa di Più Italia, la rassegna di iniziative sulla proposta di Fratelli d'Italia in vista delle europee. L'appuntamento sarà la mattina di sabato 16 marzo a partire dalle 9.30 al convito della calza, quindi mi raccomando portatevi pomodori, uova, quant'altro e anche scaldatevi le spalle per lanciare con precisione verso il convegno che inizia alle 9.30, la famiglia e la tutela dei minori, le risposte concrete, poi magari si continua con famiglia e futuro e altre stronzate del genere. Servono le uova marce. Servono le uova marce, sì, quindi andate ben forniti, eh. Andate ben forniti e questo mi fa un po', mi aggancia un po' appunto a quello di cui si parlava prima, no? Il famoso cartello dell'8 marzo che è diventato famoso sul web, che diceva il corpo mio, non di quel porco di Dio, un po' una retorica che si contrappone nettamente a quanto portato avanti dalla Meloni nella sua campagna per il Family Day. E niente, un piccolo post fatto da questo pagina Facebook che si chiama Come se Dio fosse Antani, un po', sono vicini a Pastafariani e alla campagna di Scotto, e dice appunto: il corpo è mio, non di quel porco di Dio. In queste ore numerosi perbenisti e bigotti, non solo di destra, invocano la legge sulla blasfemia per multare la ragazza in foto colpevole di aver esposto quel cartello considerato blasfemo durante la manifestazione dell'8 marzo a Roma. Della ragazza in foto non conosciamo né il nome né l'opinione politica, ma vogliamo esprimere la massima solidarietà. E questo non per fare l'elogio alla bestemmia, bensì per difendere quel principio sacrosanto riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la libertà di espressione. Siamo tutti Charlie Hebdo quando l'oggetto della satira è il Dio altrui, ma guai a toccare il nostro di Dio. Come d'incanto ci trasformiamo in jihadisti di Al-Qaeda, politicamente corretti e col crocifisso al collo. Eh sì, questo è un po' il sunto. E la bava alla bocca. E la bava alla bocca. Poi il sunto dell'ipocrisia che, diciamo, traspare e trasuda dal credo cattolico. Ragazzi, bisogna bloccare al di là... Da qualsiasi credo, mi posso permettere di dire. Con questo, non certo... Mi voglio screditare alla fede delle persone, però io la ritengo decisamente una cosa assurda. Bisogna stare belli attivi su e cercare di fermare il decreto Pillon, che è davvero un grosso attacco alle libertà. Un grossissimo passo indietro, sì. Sì, alle libertà delle donne e al corpo delle donne. Anzi, proprio letteralmente mette le mani addosso al corpo delle donne. Eh sì, sì, bisogna fare veramente tante cose. Allora, porsi a queste stronzate della Meloni e del Family Day è una delle priorità, perché appunto stiamo facendo enormi passi indietro, così come anche su tante altre questioni. Mi viene in mente il clima, il cambiamento climatico e insomma, l'utilizzo di energie, di carburanti fossili. Domani, tra l'altro, ci sarà lo sciopero per il climate change, per protestare contro il climate change. Verissimo. Domani 15 marzo, venerdì. Circa 2000 piazze, circa 120 paesi hanno aderito e scenderanno per le strade domani, anche a Firenze. Ah, Firenze dove sarà? A Firenze sarà in Santa Croce alle ore 9.30. Ah, domattina proprio. Sì, esatto, domattina è un po' una protesta che parte dall'iniziativa di una ragazza svedese che a un certo punto ha preso e si è messa con un cartello davanti al Parlamento e poi piano piano si è diffusa. circa 2000 le piazze. Abbiamo detto quali sono le richieste. Intanto le richieste sono quelle principali, sono di ridurre del 50% le emissioni entro il 2030 e invece arrivare a emissioni zero entro il 2050. Questo perché? Perché stanno succedendo cose straordinarie, nel senso che l'anno scorso, il 2018, è stato l'anno più caldo degli ultimi due secoli e mezzo quasi. Abbiamo avuto un aumento medio di 1,5 gradi. E non solo, però, perché contrapporsi a questa faccenda vuol dire fondamentalmente valorizzare la conoscenza scientifica, secondo loro, cioè, e quindi dar valore a quelle ricerche che dimostrano che l'inquinamento è una roba dannosa per il clima, per la terra, per gli esseri umani. Ci sono ricerche valide, è solo che vengono un po' screditate. Si richiede anche più risolutezza politica, perché comunque possiamo vedere benissimo che la politica non va certo in questa direzione. Abbiamo riscoperto il carbone in tanti paesi. Esatto. Costruiamo oleodotti lunghissimi che arrivano fin da noi. Il TAP è uno di questi. E quindi tutto questo, così come la fortissima aggressione al territorio di tutte le grandi opere, questo mi introduce un po' a un'altra giornata. L'aggressione a Venezuela? L'aggressione a Venezuela, sì. alla fine è una bella riserva di petrolio anche il Venezuela. Sì, è una bella riserva di petrolio, anzi, forse è una delle più grosse riserve di petrolio del mondo. Il Venezuela fa gola a veramente tante persone. Comunque, appunto, per arrivare al, appunto, parlando di clima, il 23 marzo a Roma ci sarà un altro appuntamento importantissimo, che è la marcia per il diritto al clima contro le grandi opere inutili e imposte e le devastazioni ambientali. Qui è un po' una data cardine, perché questa qua sarà una manifestazione che raccoglierà affluenze da tutta Italia. Veramente da tutta Italia si prospetta una grandissima giornata. Saranno presenti anche da Firenze, naturalmente stiamo parlando di chi combatte contro le grandi opere, quindi il comitato NOTAV, ma meno inceneritore, il comitato per la piana contro le nocività e via discorrendo. Me ne sto scordando un sacco, perdonatemi. Comunque l'appuntamento è a Roma in Piazza della Repubblica alle ore 14. Si parla di sabato 23 marzo. Top. E mi è venuto anche il raffreddore nel frattempo. Bricobaldo, ma io l'ultima volta che ti ho visto sano, non me la ricordo. Non lo so. Tra tosse, raffreddore, mal di gola. So così. No. La tana del wombat. È la tana del wombat che porta, dici, tutto questo, forse. È umida? Dobbiamo mettere È sottoterra. Effettivamente un demodificatore che tornerebbe. Sì, così. Sta accendo un fuoco. Mentre, volendo tornare a parlare di cose più leggere e come dire, futili, molto futili, abbiamo scoperto che le biciclette sono pericolose per i pedoni. Nel senso che abbiamo visto che in questi giorni c'è stata la Tirreno Adriatico, e proprio ieri, durante una prova di cronometro a squadre, un simpatico signore, non si capisce come abbia fatto, incredibile, come non si, si è piazzato in mezzo alla pista, dove, alla strada dove arrivano questo treno di biciclette a 60 all'ora, e se l'è preso nei denti. E se l'è preso nei denti. È così. Se riuscite a trovare il video su internet, sgranatelo, perché è incredibile come una delle competizioni più importanti del pianeta, la più si può dire, famosa, passa così, ti attraversi senza comunque lì farci caso. In Versilia sono recidivi, non sono, è recidivi, la prima volta che succede. E tra l'altro 5 minuti dopo una signora attraversava col cane e gli andava bene col il cane. Barboncino, ora noi delle gare ce ne frega una bella sega, perché sono solo una scusa per riciclare immagine e denaro, sì. Soprattutto se pensiamo che c'è una squadra legata a palesemente legata a Israele, e serve la squadra a fare israeliana, proprio. Sì, si chiama Israel Academy e serve a rifare un'immagine, come si rifanno un'immagine gli Emirati Arabi, mentre invece bombardano in Yemen e tanti altri. E fra l'altro la squadra israeliana ha partecipato l'anno scorso per la prima volta al Giro d'Italia, famosissimo, contestatissimo Giro d'Italia, che serviva, diciamo, era stato un po' messo al servizio dell'immagine israeliana da riqualificare, visto quello che combinano. Ci sono state grandi proteste, ci sono stati anche fra l'altro degli scontri, ci sono stati anche degli arresti. Si parla soprattutto dell'ultima giornata del Giro d'Italia 2018, dove 4 studenti a Roma furono arrestati, oltre a tantissime altre azioni di un'aggressività inaudita. Però in questo caso sono stati arrestati, non mi ricordo l'accusa, però sono stati anche prosciolti, non, sono cadute completamente tutte le accuse. Tra l'altro quest'anno il Giro passerà molto vicino a Firenze. Molto vicino a Firenze, sì. Quindi chissà. Magari una puntatina. Una puntatina, una bandierina della Palestina, sì. No, fra l'altro questa cosa della squadra israeliana era proprio un parapiglia con questi 4 studenti. Era proprio nato anche a causa di questi corridori, perché l'ultima tappa del Giro dell'anno scorso era articolata su un circuito ripetuto 10 volte, se non mi sbaglio, a Roma, e quindi c'erano i vari attivisti, soprattutto BDS, comunque pro Palestina, lungo il percorso, e hanno avuto modo di rincontrarsi più volte dovendo fare 10 giri. Poi lascia fare, non rifecero 10 giri perché non so se ti ricordi, ma fu un fallimento clamoroso per le buche della strada. Si fermarono per la condizione del manto stradale romano. Fecero, mi sembra, 3 o 4 giri anziché 10. No, assurdo, veramente assurdo. Fatto sta che a un certo punto, in uno di questi giri, uno di questi corridori prese una bottiglietta che aveva e la tirò addosso a questi attivisti. E poi scoppiò il parapiglia e arrivarono in sbirranza e giù manganellate. Accidenti. Vero. Niente. Tra l'altro, comunque, questa è una settimana ricca di eventi ciclistici. Ci sono tutte le... per chi fosse interessato alle gare, alla visione della bicicletta come strumento di corsa e non come invece pensiamo noi, strumento di utilizzo quotidiano, fioccano le classiche del nord. Eh sì. E soprattutto una effettivamente che c'ha un fascino, devo ammetterlo. Si è inserita, direi, ha ragione, nelle classiche. C'ha un fascino e sono le strade bianche che sono state fatte. Questa gara che è stata fatta, in realtà hanno capito che tirava molto l'eroica e hanno fatto una versione. Sì. Un po' l'evoluzione dell'eroica è partita da essere una cosa molto easy, poi a diventare una roba molto vintage e poi a diventare una roba molto pro. Esatto, adesso è una cosa pro. Oh, l'eroica, per carità, rimane, ormai è super partecipata. Penso quest'anno hanno fatto le 8.000 presenze, credo. E strade bianche è la versione pro dell'eroica, quindi RCS, che sono i simpaticoni che hanno preso i soldi dagli israeliani per fare RCS, sì, il Corriere, la Gazzetta, scusami, la Gazzetta, per fare il Giro d'Italia da Gerusalemme, hanno avuto questa idea di fare questa gara sugli sterrati sia del Chianti sia delle Crete Senesi. Oggettivamente non gli si può dire nulla, è bellissimo, uno spettacolo bellissimo, molto bello, perché bellissimo. Finalmente li vedi patì, li vedi soffrì, sì, e li vedi. L'anno scorso si sono infangati. L'anno scorso erano delle maschere di fango, quest'anno quello di sinceramente polvere. Sì, quest'anno semplicemente polvere. Però sì, ha un qualcosa da veramente di eroico. Sì. Quello mi fa tornare, diciamo, simpatia nel ciclismo sportivo, ecco. Perché sembra che fatichino davvero, poi non lo so, se sono bombati anche lì. Saranno bombati anche lì di sicuro, però intanto durano un po' di fatica. Dai, più. Un pochettino, sì. Che si fa, Bricco? Non lo so. Io... Siamo andati lunghini, eh? Siamo andati lunghini, dici? No, siamo giusti. No, ci siamo, siamo bravi, dai. E non so. Abbiamo lasciato il nostro ospite. Ha qualcos'altro da dire? La sua discolpa? Continuerà a pedalare? Certo, sempre e comunque si pedala. Grande. E niente. Mi colpisce questa canzone che ha messo. Ti colpisce questa canzone che ha messo? Stavo per dire una cosa, mi ha... Che cosa ti sembra? Mi ha ammutolito. Ah, sì. Ho visto un re. Se lo riscuse? Ho visto bella. Un re. Un re che piangeva. Via, allora vi ricordiamo. Cosa vi ricordiamo? I nostri contatti. I nostri contatti e la nostra frequenza. La nostra frequenza 1359 AM nella Piana. Nella Piana, ma ben presto anche in tutta la città. perché il Wombat si sta potenziando e a breve con tirerà fuori i muscoli. Nuove tecnologie, tirerà fuori i muscoli e riuscirà ad arrivare, si spera, in tutta la città. Allora salutiamo il nostro ospite, ciao Rich, continua a pedalare. Continua a pedalare e ascoltaci, 13.59 abbiamo detto, per ti ricordiamo anche a te la festa Wombat che sarà a brevissimo, il 1° maggio, presso gli spazi della polveriera Spazio Comune. Sarà un po' una giornata, non sarà un evento, una serata, bensì inizieremo fin dall'ora di pranzo, probabilmente andremo dritto fino a dopo cena, perché il 1° maggio è festa dei lavoratori, ma quest'anno anche Wombat. Festa del Wombato. Festa del Wombato. Questo è Enzo Iannacci e Cochi e Renato. È povero anche il sacrista. Ho visto un ricco. Sarai scusa? Ho visto un ricco. Un show. Sì. Coi vaini. Denver, lasciamo. Il tacchino lacrimava su un calice di vino. Ascoltatrici e ascoltatori, noi vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, tra 2 settimane. Non vi distraete e restate wombati. Restate wombati per stasera che abbiamo l'Accademia della Brusca. Bruscatevi l'Accademia della Brusca. Accademia della Brusca. È così. E il giovedì, mi raccomando, antenne dritte, perché lo spazio libero che era lasciato libero da noi è stato occupato. Niente po' di meno che da L'Urlo dei Balcani. Non perdetevelo. Urlo dei Balcani è una trasmissione che parla dei Balcani, quindi notizie, curiosità, musica e con la voce di Tuco, che è assolutamente imperdibile. Detto questo, noi vi lasciamo. A giovedì prossimo. A giovedì prossimo. Ciao. Wombat. L'ha mezzo rovinato, gli han portato via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie. E per cos'è? Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale. Poi il Purcell, nel senso del maiale. Sì, beh. Ma lui non piangeva, anzi ridacchiava. Ma Salerma? No, il fatto è che noi di là, noi di là, è sempre allegri, bisogna stare. Il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale. Diventan tristi se noi piangiamo, e sempre allegri bisogna stare. Che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale. Diventan tristi se noi piangiamo. Oh, beh! E puntate in pedale.